Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera facciamo un viaggio, un piccolo viaggio in una parte dell'economia reale italiana e lo facciamo sulla base di un libro che parla di un fenomeno di cui si parla poco, le imprese rigenerate dai lavoratori. Se chiudi, ti compro. Un libro scritto da Paola De Micheli, Stefano Imbruglia e Antonio Bisiani che abbiamo con noi questa sera. Buonasera onorevole Bisiani. Buonasera a tutti voi. Antonio Bisiani, bergamasco, laureato in economia politica e deputato del Partito Democratico, fa parte della Commissione Bilancio della Camera e si occupa ovviamente di politica economica e di finanza pubblica e ha collaborato appunto a scrivere questo libro, che è un libro che parla di una realtà appunto di cui si parla poco e di quella delle imprese che vanno in crisi, perché molte imprese purtroppo per tanti motivi di gestione, di settore, vanno in difficoltà, ma c'è in Italia una legge Marcora che aiuta queste imprese a trovare delle soluzioni nuove e infatti il libro parla di imprese rigenerate dai lavoratori, tra l'altro c'è una prefazione del libro di Romano Prodi. Allora, onorevole Misiani, perché si può parlare ancora di legge Marcora, che è una legge che ha qualche decennio? La legge è del 1985 e quindi affonda le sue radici in un'altra epoca storica, però ha dimostrato negli anni di funzionare, è stata via via modificata, migliorata, arricchita da ultimo con la legge di bilancio del 2017 e negli anni ha salvato centinaia di imprese che altrimenti sarebbero state destinate a chiudere e oltre 15.000 posti di lavoro. Con un investimento di risorse relativamente modesto, si parla di poco più di 200 milioni di euro, oltretutto sotto forma di fondi rotativi che quindi sono tornati nelle casse dello Stato, generando oltretutto per lo Stato maggiori introiti fiscali e contributivi. Quindi una legge che sostanzialmente non è costata ai contribuenti, ha salvato posti di lavoro e ha salvato realtà produttive che altrimenti sarebbero scomparse. Ma qual è allora lo strumento, qual è la filosofia di questa legge? Come interviene per aiutare le aziende in difficoltà ad uscire dalle difficoltà? Le condizioni fondamentali per il successo di queste operazioni sono due: che ci sia un mercato, delle prospettive di ripresa per queste aziende che spesso rischiano di chiudere per errori manageriali, per ritardi di pagamento, per fattori che spesso non dipendono dalle prospettive dell'impresa in sé, e poi ci deve essere la volontà di una parte consistente dei dipendenti di assumersi la responsabilità di diventare imprenditori, di prendere in mano il proprio destino utilizzando la propria cassa integrazione, indennità di mobilità, spesso anche risparmi personali per ridare vita a queste imprese. Ci sono anche fondi pubblici destinati a questo scopo, ci sono le finanziarie previste dalla legge Marcora, in particolare il CFI, Cooperazione Finanza Industria, che assistono e finanziano queste operazioni, quindi i lavoratori sono accompagnati in questo processo. Ripeto, è uno strumento di nicchia naturalmente perché è applicabile soltanto ad alcune situazioni, però ha funzionato e in un paese che tende spesso a dare soldi a fondo perduto, certo. E invece qui siamo in presenza di risorse pubbliche utilizzate bene che hanno salvato migliaia di posti di lavoro. Ecco, è una legge appunto che aiuta a responsabilizzare le persone e a farle partecipare all'interno del processo produttivo. Molto spesso si è visto negli anni passati una logica di conflitto tra gli operai e il padrone, per dirla in maniera abbastanza brutale. Però ecco, questa legge fa in modo che si passi a una logica diversa, una logica in cui gli interessi sono comuni, in cui forse magari non c'è più un padrone perché ha gestito male l'impresa. Sono le aziende rigenerate, vengono rigenerate in forma cooperativa e quindi i lavoratori diventano soci lavoratori di queste cooperative e prendono in mano il proprio destino, diventano dei veri e propri imprenditori in forma cooperativa, ecco, come previsto dalla legge Marcora. Infatti, e questo è un cambiamento proprio di prospettiva ideologica, e in questo senso il sindacato, che per sua natura conflittuale, come la prende? Il libro è una rappresentazione non retorica di queste storie, abbiamo cercato di rappresentare la realtà per quella che è, e emergono nei casi che abbiamo analizzato degli atteggiamenti diversi da parte del sindacato caso per caso. In alcuni casi il sindacato ha aiutato a fare queste operazioni, in altri casi invece le ha ostacolate, ai noi, e in altri è rimasto indifferente, perché il workers buyout, la rigenerazione d'impresa, non è stata presa in considerazione o lo è stata in un tempo successivo, insomma. Quindi la lezione che si può trarre da queste vicende che abbiamo cercato di raccontare è, per il sindacato, la necessità di riutilizzare e di favorire questo strumento. Ci sono tante lezioni anche per il mondo delle imprese, insomma, perché emerge una lettura, anche in questo caso non retorica, dell'impresa, certo, degli imprenditori italiani, e poi anche per i lavoratori, perché spesso i lavoratori che hanno avuto il coraggio di rigenerare le imprese trasformandole in cooperative, insomma, hanno fatto molta fatica a convincere tanti colleghi che invece hanno preferito prendere la cassa integrazione o la disoccupazione, quindi fare una scelta, diciamo così, passiva rispetto alla crisi delle aziende in cui lavoravano. Ecco, ci sono questi due aspetti che peraltro Romano Prodi mette in evidenza nella sua prefazione, parla di lavoratori che decidono di rimboccarsi le maniche, contrapposti ad altri che preferiscono, per necessità o per furbizia, continuare a incassare il sussidio di disoccupazione in attesa che i sussidi pubblici risolvano la situazione o almeno ne allevino le conseguenze, e sindacalisti più legati a dinamiche del millennio scorso e altri più attenti alle evoluzioni della società. Ecco, da questo libro, che non è tutto un libro di successi, sono anche esperimenti che sono durati alcuni anni, poi hanno dovuto arrendersi un po' alla realtà, però ne esce un'immagine di un'Italia in fondo che, come diceva prima, ha bisogno di coraggio per affrontare le cose, per affrontare anche con realismo il fatto che non si può andare contro la storia. Aziende in settori in declino, anche con tutti gli strumenti giuridici, normativi e legislativi, non riescono poi a sopravvivere, quindi rendersi conto di dove può andare appunto la realtà. Ecco, in questo senso si può anche vedere in queste prospettive, in questa possibilità, la capacità di alcune imprese di uscire dai loro schemi per affrontare quella che è nuova realtà, la realtà dell'informatica, delle comunicazioni, degli smartphone, del digitale, del virtuale. Onorevole Misiani, possiamo guardare a queste possibilità per dare anche un po' di speranza a chi fa delle start-up, magari appunto partendo da esperienze di altro tipo? Ma guardi, io sono convinto che l'Italia abbia delle straordinarie energie e potenzialità per riprendere a camminare, in parte lo sta già facendo anche nel settore dell'industria manifatturiera. È chiaro che siamo tutti chiamati a fare un cambio di passo, è un po' la lezione che emerge da queste storie. Devono fare un cambio di passo tanti imprenditori che sono rimasti legati a vecchi schemi e che negli anni della crisi non hanno retto i cambiamenti della crisi, ma anche la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica. Devono fare un cambio di passo i sindacati, per quello che dicevamo prima. È necessario che lo Stato accompagni il sistema produttivo. Guardi, noi dal 2008 al 2014 abbiamo speso 154 miliardi di euro in politiche passive, cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, che hanno aiutato la tenuta sociale del paese, perché sarebbe esplosa l'Italia senza dare una rete di protezione a chi perdeva il lavoro. Però abbiamo fatto troppo poco dal punto di vista delle politiche attive, quelle di promozione del lavoro e dell'imprenditoria. La legge Marcora è una legge vecchia di 30 anni, però ha dimostrato di funzionare. Con questo libro ci siamo anche posti l'obiettivo di fare conoscere un po' di più questa esperienza e di, come dire, dare il nostro piccolo contributo a questo cambio di passo, insomma. Ecco, in questa prospettiva, proprio appunto conoscere queste esperienze, ritornare, riportare alla ribalta questa legge che appunto, avendo 30 anni, è ancora di estrema attualità, dimostra anche, forse rendiamo atto alla storia, un po' la lungimiranza di personalità come Marcora, che sapeva parlare, aveva una profonda aderenza con quella che è la realtà dei territori, la realtà delle imprese, la realtà in fondo delle persone. Ci sono strumenti, ci sono potenzialità. Ecco, pensare che ci si deve aiutare da soli perché lo Stato ci aiuti, è un po' questa la logica che sta alla base anche di questi interventi. È una logica di assunzione collettiva di responsabilità. I casi di successo sono casi in cui i lavoratori hanno scommesso c'è stato un aiuto intelligente da parte delle politiche pubbliche e le comunità locali si sono strette attorno a queste imprese aiutandole a ripartire. I sindaci hanno fatto la loro parte, i parlamentari hanno dato una mano e si è andati tutti nella stessa direzione. Questa è una grande lezione per un paese spesso litigioso, diviso, ma che invece in tante realtà poco conosciute ha potuto unirsi e quindi salvare, certo, posti di lavoro e ridare prospettiva all'economia. E anche pensare, per concludere, che il modello di impresa, il modello appunto di società, non è solo quello strettamente capitalistico, ma anche la cooperazione, che in Italia ha una grande storia, può trovare nuove forme e nuove potenzialità all'interno di una realtà attuale. Beh, noi volevamo raccontare anche delle belle storie di cooperazione. Guardi, la cooperazione cooperativa è diventata spesso una parolaccia nel dibattito pubblico. Ci sono dei limiti che sono emersi nel modello cooperativo in, certo, questi anni, che vanno affrontati, però non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca. Insomma, il mondo cooperativo vale 8 punti del nostro PIL, ha tenuto dal punto di vista occupazionale molto meglio di altri settori. Le imprese rigenerate sotto forma di cooperative hanno un tasso di sopravvivenza nettamente superiore alla media. Insomma, anche questo è un dato di cui tenere conto. Sono dati positivi che aiutano a guardare, forse non con ottimismo, ma con un po' più di serenità il futuro. Grazie ad Antonio Misiani, che ci ha parlato di questo libro, scritto insieme a Paolo De Micheli e Stefano Imbruglia. Il libro si intitola Se chiudi ti compro, le imprese rigenerate dai lavoratori, con prefazione di Romano Prodi, edito da Guerini e Associati. Sono 256 pagine per 18,50 euro. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine per settimana prossima.